America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, la tempesta Juno, the blizzard Juno, è archiviata, ormai appartiene alla storia, da oggi si riprende in normalità. Dunque io vorrei parlarvi d'altro. Ieri vi ho anche parlato di Barack Obama in India, anche quello un viaggio archiviato, molto importante, il presidente è rientrato. Mi sembra interessante oggi invece tornare su un argomento che ha a che fare con la nostra economia e che secondo me continuerà ad avere un impatto, e cioè il petrolio. America is the number one producer of oil, the number one producer of gas. It's helping to save drivers about $1.10 a gallon at the pump over this time last year. Barack Obama, un intervento del presidente americano sul petrolio, descrive gli straordinari risultati che si sono avuti in termini di aumento della produzione negli Stati Uniti, in termini di calo del prezzo del greggio, che ha aiutato sicuramente l'economia americana, ma che ha aiutato il presidente Obama anche sul piano politico, perché oggi sappiamo che un paese come la Russia, che si è trovato con Vladimir Putin a sfidare proprio Barack Obama, oggi è in difficoltà perché il prezzo del greggio è calato. Oggi si fanno i conti e dietro la caduta del greggio, diciamo il dark side, il lato oscuro della caduta del prezzo del greggio per gli Stati Uniti, è in una bolla finanziaria che è stimata in 550 miliardi di dollari, con rischi su vari livelli, sia per gli investitori che hanno messo i loro quattrini in un mercato obbligazionario che oggi diventa junk, che per molti istituti bancari. E proprio di banche si è parlato ieri a New York. Sentiamo. JP Morgan Chase, the biggest US bank by assets, reported a 6.6% drop in quarterly profit, hit by legal costs of nearly $1 billion in the wake of government probe. Ecco, avete sentito, abbiamo avuto i risultati finanziari di alcune banche americane. Ieri di JP Morgan Chase e di Wells Fargo, domani di Citi, e poi via via avremo i risultati delle altre banche. Ma cosa ci interessa in particolare al di là dei risultati finanziari? Beh, un aspetto molto significativo, in particolare per JP Morgan Chase. Vediamo che cosa ha riportato ieri in termini di risultati. Intanto profitti per 4,93 miliardi di dollari. Ma quel che è successo è che il fatturato della banca è sceso del 2%. Perché? Beh, in parte proprio per una diminuzione delle attività legate al settore petrolifero. Per ora non c'è ancora un riflesso immediato molto forte, ma gli analisti temono che da qui al 2015, se le cose nel settore continueranno a essere tra virgolette stagnanti, perché col prezzo in calo le industrie poi non investono, ci sarà un impatto su Citi, che ha un reddito che deriva dal settore energetico per 492 milioni di dollari relativo al 2014, stiamo parlando dell'11% del totale del fatturato di investment banking, e anche per JP Morgan Chase, che ha 435 milioni di dollari di reddito di fatturato che deriva dal settore energetico, e parliamo del 6,6% del fatturato totale di investment banking. Ecco, in JP Morgan Chase già vediamo questa piccola frenata. Si tratta di capire fino a che punto la diminuzione e il rallentamento di questo settore incideranno sul fatturato di comparto, e soprattutto come queste banche potranno sostituire questa diminuzione importante, perché è stato un periodo di boom dal punto di vista dell'investimento nel settore energetico, come lo sostituiranno con altre entrate. Junk bonds as measured by the Bank of America Merrill Lynch Index have risen every year since 2008. That year, by the way, junk bonds sunk by 27%. Now, as of today. Ecco, il mercato obbligazionario, quello del credito, rappresentano la buona parte di questi 500 miliardi di dollari di cui vi parlavo prima. E qual è il problema? Il problema è che con un prezzo al barile che si sta avviando rapidamente verso i 40 dollari, ci si trova naturalmente in difficoltà. Un altro elemento di incertezza riguarda il valore di garanzie che erano state date a fronte di prestiti, ed erano state date queste garanzie principalmente in forma di materie prime, dunque in forma di garanzie sul petrolio che veniva estratto. Però qual era il prezzo medio? Fra i 70 e gli 80 dollari al barile. Quindi molte delle banche che oggi si trovano esposte nei confronti del settore non hanno neanche il collateral. Un terzo livello di preoccupazione infine riguarda gli investitori in titoli azionari. I titoli di molte aziende energetiche sono caduti. Ecco, le ripercussioni a questo questo punto viene fatto di pensare che potrebbero esserci, se questa cosa si avvita davvero, anche sull'economia, perché si prevede una caduta delle trivellazioni, delle esplorazioni, una riduzione dell'estrazione del greggio in America. Di conseguenza un altro settore potrebbe soffrirne a cascata, quello immobiliare. Very substantial decline we've seen in oil prices is one of the most important developments shaping the global outlook. Ecco, su questi dubbi di un possibile impatto sull'economia o sul sistema finanziario è intervenuta Janet Yellen in persona, il governatore della Federal Reserve. Ha cercato di rassicurare e ha detto che sostanzialmente nell'equazione l'America beneficia molto di più dalla caduta dei prezzi energetici a livello economico, a livello finanziario, a livello di consumatore, che dal potenziale rischio di un impatto negativo sull'economia in termini di rallentamento della domanda o, peggio, di un impatto sul settore finanziario. È possibile che abbia ragione la Yellen. Io devo dire che sono forse un po' più preoccupato, perché abbiamo avuto alcuni fallimenti, abbiamo avuto delle cadute dei prezzi obbligazionari e forse qualche problemuccio c'è già. Io direi più che qualche problemuccio. Complessivamente si calcola che le perdite sulla carta in termini di valore per gli investitori che hanno sottoscritto queste obbligazioni è addirittura pari a circa 55 miliardi di dollari. Parliamo del 5% delle emissioni complessive. Ma torniamo alle banche. Morgan Stanley, che ha chiuso un accordo per la vendita di 850 milioni di dollari di obbligazioni per Vine Oil e Goldman Sachs e UBS, non sono ancora riusciti a chiudere le operazioni su questi titoli, a collocarli. Rischiano di ritrovarseli sul gobbone ed è un rischio molto concreto, perché insomma in questa situazione non vedo chi vada a sottoscrivere nei titoli obbligazionari nel settore energetico, petrolifero, shale gas, nel momento in cui c'è questa crisi. E qual è il rischio di fondo per le banche? Che restare con carta di questo genere in portafoglio potrebbe rischiare di tradursi, con le nuove regole di contabilizzazione e trasparenza soprattutto, in delle perdite molto forti, che forse non preoccupano la Yellen, ma che certamente preoccupano molti investitori. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho trovato questa canzone country western di Trace Adkins, è dedicata a un petroliere, anzi a un operaio del petrolio che fa il drilling, le perforazioni su una piattaforma nel Golfo del Messico, che vede il sole che cala nell'oceano e pensa alla sua amata lontana. Missing You. I lay down on my bed and stare at that picture of you. Foot on the beach, looking at me the way you do. I fall asleep with your letter in my hands. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.